Buongiorno a tutti, parleremo oggi di trappole, della contrizione dei pellegrini di Carlo Live e Jean-Paul Sartre, nonché di problemi dell'evoluzione delle merci.